pugno, ben sentito, vai. Ma tanto non risolvono nulla, perché se poi non pagano al comune, fallisce anche il comune. No, oh, ma lui nella dichiarazione che ha fatto, siccome c'è il mio cugino, no, che è assessore Gambino, ha detto, nella dichiarazione che ha fatto, lui ha dichiarato che andrà incontro ai cittadini rateizzando l'acqua per far rientrare, capito, i quattrini nelle casse del comune. Ma se uno non ha, non imbarca, boh, ma è venuta la vaga, uscì Giulio. Avete lanciato a me? Perché sto parlando qua a baracchino, capito? No, va bene, stavo dicendo qua, avete lanciato me? No, che si fa vedere se mi sapi? No, stavo parlando a telefono. Ah, ho capito, sì, è entrato Antonello e ti ho rilanciato. Ok, ciao Antonello, saluto, sono stavo parlando anche a telefono, che nel frattempo scusate il telefono qua. Ciao Giulio, saluto, mi hai sentito. A me non mi scusa il telefono, capito, quando intanto faccio vedere il clip, mi scusa il telefono e infatti, dunque avevo due cose, due orecchie, tutti e due impegnati, uno a baracchino e uno al telefono, ma, però a quel punto fai qualche confusione, come stavo facendo, le reso. Vabbè, dai, avanti già. Speriamo bene, perché quando uno non paga manda il fallimento di ditta, c'è poco da fare. Speriamo che si svegli qualche cosa, il lavoro, perché è un casino. Molta gente non può pagare, non è che tutti siano morosi perché lo vogliono, ma magari qualcuno non può pure. Il comune moroso, come il produttore Gerabanone, deve 750.000 euro, capito? 750.000 euro, perché gli uffici del comune e tutti gli enti preposti del comune a Porto Torres, compreso il teatro, compreso tutto, la compagnia portuale, non ha mai pagato EVA. Figurati, come fa l'azienda ad andare avanti, ragazzi, cioè poi non incassa i soldi, ma non è possibile, ragazzi, non è possibile, tanto che si deve vedere la luce si vede il buio totale, si vede, incredibile, veramente, guarda, chissà quanto direbbe a Barova. No, il comune di Sassari praticamente essendo socia, il comune di Sassari è socia di Abbanoa, capito? E quindi praticamente le quote vengono poi scalate, le quote che vanno a coprire gli oneri del comune, vanno a scalare, mentre Porto Torres, che non ha niente a che fare assieme a tanti altri paesi, è sempre in deficit. Non è possibile, hanno il coraggio di lamentarsi anche. L'altra volta abbiamo visto la televisione, mi sembra, un uomo è andato con la bottiglia e l'acqua gli era messa, l'acqua della bottiglia, sulla scrivania, l'acqua della bottiglia nera, e l'ha messa sulla scrivania al sindaco. Il comune di Sassari, compreso il sindaco, è uno dei maggiori azionisti di Abbanoa, quindi non ne ha problemi per poter poi fare i conti, entrate e uscite, mentre Porto Torres si dice, ma va a carina, a voi si lamenta, io manco condotta l'abbiamo fatto, per conto mio, solo che la condotta va fatta perché è stata stanziata dalla comunità europea e quindi va fatta, altrimenti manco la condotta l'avrei fatta. Avevi attaccato qui l'Eva e chiedi della Marinella, tira ghiscia e pompa ghiscia, e se no viene lì l'Eva del Rio Manno. Poveracci, portatore, ragazzi, e beh, d'altronde, anche loro se non pagano, guardano, che pretese hanno, non è possibile, ragazzi, ci devo credo, sì. Ecco, così è che va il lavoro all'azienda, quando appunto non riesce ad avere i soldi da parte degli utenti o da parte da chi di chi deve pagare, non è possibile che possa continuare così. Ma comunque, Gianni. Vabbè, ci saranno anche quelli che hanno pagato, magari in mezzo a quelli che non hanno pagato, perché io la sera oggi ho portato 20 casse di acqua, mi ha detto qua già, la sto usando, malgrado paghi l'acqua, sto usando questa qua perché quella del rubinetto non si può usare, sul giornale è uscito di non usarla e quindi non la sto usando, e sto usando quella comprata, capito? Sì, ma in un sacco di zone stanno facendo così. Te l'ho detto, la zona alta, quindi Serra di Pugno. censimento sono tutti regolari, tutta la parte bassa, la parte del centro storico, tutta la parte del porto, mi sembra non hanno mai pagato. Siamo il quartiere del più popolare, quello che paga, così è. Sì, quelli sono regolarissimi, te l'ho detto, tutta la zona alta, praticamente l'ingresso del Porto Torres è tutto regolare, mentre invece tutta la zona bassa, proprio dove abita mamma, centro storico, tutta la zona bassa, ok? Iniziare da San Gavino sino al porto, lì se non hanno mai pagato nulla, capite? C'è un sacco di gente che c'ha anche soldi, ci sono gli studi dentistici, ce ne sono tanti a Porto Torres che non hanno mai pagato Eva. Non è possibile, ragazzi, che si debbano sentire queste cose. No, non è possibile proprio. E poi si lamentano quando un'azienda, ragazzi, va in crisi. Io non credo io che va in crisi. Cazzo, da 750.000 euro non so pochi, no. Sono un sacco di soldi, sono. Cazzettina. E poi queste le aziende a un certo momento che cosa fanno? Non è che muoiono di fame loro, fanno morire di fame gli altri, quelli che ci lavorano per loro. Ma non è possibile che si debbano sentire certe cose. Incredibile veramente, guarda. Riprendi Antone. Cioè, ma tu immaginati Gianni che per farti capire dove sono gli ormeggi delle barche, no? Che sono a pagamento, che tu per mettere una barca lì, per non fare il nome, no? Dove c'è il mare, eccetera, eccetera, già mai capito, dentro il porto. Dici, solo dici, devi traere la compagnia che v'è, no? Degli ormeggiatori, devono quasi 200.000 euro. Se lo conto. E lì usano l'acqua per pulire le barche, tutto quanto. Ma infatti loro se lo fanno pagare però l'ormeggio è il servizio, no? Loro ti hanno servizio e se lo fanno pagare, loro non pagano. Ha visto da me, io ho preparato tutte le cartelle del censimento, siamo rimasti settimane e settimane chiusi in ufficio, preparando tutte le cartelle. E quando è finito il censimento ho visto le cartelle portate da chi era detto, siccome il portatore 750.000 euro indietro con i pagamenti, e in più mi pare un 250 o 300 persone senza contatori abusivi del tutto, e più di 1500 persone che praticamente hanno fatto la cifalsi. Ma noi stiamo aprendo il lavaggio, però abbiamo fatto il pozzo per il lavaggio, abbiamo trovato l'acqua, quindi il lavaggio funzionerà con il pozzo. Beh certo, e anche ragazzi mia figlia c'ha il pozzo, non gli va, vabbè. Avanti Giulio Rò, e allora andremo questa sera a fermarvi della Fiorentina, che schifo che è. Oh scabesina, non ho potuto sopportare quella sera lì, non è possibile, guarda. Come si fa a perdere 4-2 vincendo 2-0? Speriamo bene stasera, ma laggiù Lugoni un po' più triste, perché col Real Madrid non è semplice, ma potrebbe anche perdere col Real Madrid, per carità, ci potrebbe anche stare, sappiamo benissimo, è una delle squadre più forti del mondo, però che stava vincendo 2-0, l'ha messa sotto per tutta la partita, io l'ho vista la partita, l'ha messa sotto tutta la partita alla Fiorentina, e poi in pochi minuti prende 4 gol così, non è possibile, guarda. Quanto mi ha dato fastidio quel giorno, poi ero per facciare la televisione, ma se vuoi tenere un bagata io, è meglio che me la tenga in tria. Certo, ogni umiliazione, e anch'io ce l'ho, cioè mi riassetti prima, anche stasera non la vedo in diretta, però che schifo veramente, ha salutato tutta la guida, da lunedì a oggi mi sono fermato ancora a pezzi, vabbè, perché io c'ho un sacco di colleghi che sono anti-juventini, però io sono sportivo, ho messo le responsabilità della squadra perché non si può giocare con gli eventi. Comunque, vediamo stasera che cosa fa. Dove sei arrivato Gianni? Sono fermo, mi sono fumato una sigaretta, mi sto parlando, 5 minuti mi rilascio, prima di tornare a casa e poi rientro. K. Antonello non c'è più, Antonio? Zitto il pari, entra, esci, bruh. Così ha fatto stasera, stavo parlando stasera con Graziano, ho detto, 5 minuti entro subito, boh, non si è più sentito, l'abbiamo sentito poco fa, ma questo dopo 2 ore e mezzo, 3 ore, incredibile. parte della sua cattura. Caspita di un battito, era un po' lungo, che c'è stata dura, l'ora e mezzo dopo si è ripresentato. Oh, yeah. Poco fa stavo usando l'HB23 qua, quello che mi hai dato tu, così per farlo funzionare, no? Già, ogni tanto lo faccio girare. E mi pare che ti ho sentito di sfuggita, vero, con l'altra radio. Esce molto bene col baracchino, molto molto bene, poi con quel microfono va alla grande. Questo lo stesso, anche l'altro, no, già vai benissimo di radio, non c'è problema. Uscire, caro Gianni, vabbè. Vediamo un pochino, io adesso dovrei lavorare domani. È da venerdì, se non hanno cambiato idea, ma ho fatto la domanda già una settimana fa, non mi hanno detto niente. Dovrei andare in ferie una settimana, così se il tempo continua così mi finisco il lavoro delle antenne, mi sistemo qualche cosettina a casa e mi rilasso un po', a che so, il cucchiaio già nel più rum, la testa mi sta scoppiando. Siamo, cioè, sto traslocando un negozio, immaginate la merce che sto portando per tutto il lavoro che devo fare. Sono truncato, infatti prima di andare a casa mi sto rilassando perché sono un po' nervosetto, è meglio che mi rilassi un po'. Sì, anche lo dici, io sono sempre con la temperatura 1000, sempre, non sto riposando, sono sempre indaffarato, vai qui, vai là, ti spostano a destra, a sinistra, c'ho colleghi che per carità di Dio, e quindi lasciamo perdere. Anche stamattina, a prima chito, proprio a rinnovo, mi sono attaccato due elettricista, capito? Pensa di essere chissà chi e poi non capisce un cacchio. Perciò ce n'è per tutti, ce n'è per tutti. Io ho lavorato sabato dalle 6 alle 2, domenica ero reperibile, ho fatto un intervento, ma mi hanno chiamato velocissimo, non accusava niente, sono uscito che erano le 8 e mezza, sono rientrato che era quasi mezzogiorno, quando ero bello rilassato a casa alle 2 e mezza è partito il telecontrollo dell'allarme a Trinità d'Agurtu, all'Isola Rossa, che hanno scaricato una piscina e come è arrivata la mandata dell'acqua ha spostato tutti i galleggianti e sono andati tutti in teleallarme, quindi sono dovuto intervenire e sono tornato che erano in 4 e mezzo di pomeriggio di domenica, quindi a Bailandù lunedì alle 6 stavo nuovamente uscendo al lavoro, cioè praticamente non ho riposato niente, scoppiato, avanti Giulio. Ok, sì, che ti puoi immaginare. E poi dicono che il lavoro, capita, no, non distrugge, è l'unico che distrugge, quando uno comincia a fare tutto con le ore di sacrificio, capita, non è possibile. Non lo credo al laboratore, bene, è questo che mi dà fastidio, non credono al laboratore, capita, è quello, porca miseria, che mi sarebbe venuto la stessa di Bigliani, capita, a pugna a capo certe persone, non credono al laboratore, capita. Boh, come si fa? Vabbè, cosa vuoi fare qua? Purtroppo è così. E meno male che c'è almeno lavoro. Se no, e quelli che non ce l'hanno non è ancora peggio. Quindi poi non ne parliamo, per carità. C'è tanta di quella gente che sta morendo di fame, capita? Che non ha nemmeno soldi per mangiare più. Ma comunque speriamo che si rimetta a posto tutto. Se prendi già. È una speranza, ma mi sa che le cose stanno andando e peggiorando. Io guarda, non sono pessimista, però quando vedo quello che dico al televisore e sento, non ho molte speranze, perché qua è così c'è poco da fare. Avanti, avanti, lavoratore. Io quello che ha voglia di lavorare, venga fuori. Non so chi è, questo baracchino non ho capito chi è. Cosa stavo dicendo? No, ma il problema, Giulio, è che quando mi ha telefonato il responsabile mi ha detto no, ma ti facciamo un salto almeno a disinserire il, perché lui ce l'ha collegato al telefonino, quindi le suona, no? Cioè, ad esempio ogni 3 secondi le manda l'impulso, B, capito? Allora mi ha detto vado almeno a disinserire il teleallarme. Faccia un salto, mi ha detto, certo faccia un salto, sono 120 km andare, 120 km a tornare, secondo te dovevo fare un brinco? Chi te lo è stato in capo? Sinceramente, come può uno vuol dire faccia un salto, capita, c'è buona la giornata, ci vuole andare a tornare, non è possibile, incredibile. No, lo sai, con questa gente qua, perché non si sacrificano molto fisicamente, capito? E allora per loro è così semplice, no? L'operaio invece che quando la sera è distrutto dalla stanchezza del lavoro che ha eseguito, no, non è creduto, è quello che mi dà fastidio. E pensare che il lavoratore, quindi come noi, ragazzi, siamo quelli che manteniamo in piedi la nazione, ragazzi. Invece questi che sono seduti a tavolino, che non fanno niente dalla manzana da sera, escono quando le pare le piace a prendersi il caffè, boh, non è possibile. È questo che mi dà la sì, a me. E oltretutto prendono, guadagnano anche di più di noi, è quello il problema. Boh, ma sta venuto arrabbiarsi. Avanti già. Che quelli furbi. Perché tante volte ci sono anche colleghi che sono furbi, non fanno il lavoro che devono fare e tra l'altro sarà te, capito? E chi ha sempre lavorato non gli piace vedere le cose disordinate, le mette a posto e poi alla fine della giornata è stremato. Per forza che è stremato, io lo vedo dopo un'intera giornata di lavoro, sapete Claudio, che fa tutta la tirata, e molto spesso di turno anche di domenica, di sabato, boh, ma non è possibile. Non è possibile, purtroppo devi stare zitto, un lavoro te lo devi mantenere, a giorno d'oggi se lo perdi sono problemi seri, e come farebbe la famiglia, non è possibile, bisogna pure andare avanti, allora uno deve abbassare la testa e continuare, soffrendo ma continuare, capito? Avanti qua. Capo, è dal 15 giugno che non mi fermo un giorno, ci sarebbe domeniche, sono con 4 domeniche e 4 sabato che travaglio, ho detto che sabato ho lavorato dalle 6 alle 2, normale, sono andato a casa che erano le 2, quasi le 2 e mezza, ok, domenica mattina mi hanno dato di nuovo la reperibilità, ho detto fino a inizio mattinata era tutto a posto, tutto ok. Poi mi hanno chiamato a metà mattinata e sono rientrato a mezzogiorno e mezza. Mi sono impugnato, mi sono molto tranquillo, a ridui ti sono uscito, attaccavo un interruttore, tu immaginati per disinserire un allarme lì a Marinetta e Zona Rossa, tanto ne sono tornato che erano le 5 meno 20, quindi immaginati tutto viaggio, sono entrato in cabina, ho attaccato il telecontrollo e sono ripartito, quindi tu immaginati dalle 2 che sono uscito qua da casa, sono entrato alle 5 meno 20, a cenè di viaggio. Capito, ce n'è, io credo che ce n'è, come ce n'è, no, non è possibile, speriamo che almeno se non altro te li mettono in conto, voglio dire, te li pagano queste ore e queste mezze giornate così, ma non è possibile, non è possibile, ma speriamo, c'era poco fa uno che stava parlando sotto, mi è sembrato, e non volevo sbagliarmi, la voce di Massimiliano un po' in lontananza, attenzione Massimiliano, sei tu? No, non lo sento, non lo sento, poc'anzi io l'ho sentito, ma adesso no, non lo sento nessuno. Avanti già! Che cappa! Vabbè, lo sai cosa c'è? Che adesso ne approfittano proprio perché c'è poco lavoro e chi lavora deve lavorare il doppio, capito? Ne approfittano per quello. Infatti, però non è giusto così, non è giusto assolutamente, tu non puoi esprimere le persone in quel modo, le persone devono fare le sue ore normali e basta, e con l'interruzione del pranzo invece a fare tutta la tirata, dalle 6 del mattino alle 3 di sera, guarda che non è tanto semplice, oltretutto quello che fa un sacco di chilometri tutti i giorni, che quello è ancora più stancante del lavoro proprio che farebbe sul posto, non è vero qua? Assolutamente sì, non è un lavoro di pale picco il mio è un lavoro di controlli, di organizzazione, di conduzione di impianti, quindi non mi posso lamentare per quello. Il problema è che quando mi hanno spostato in questa zona dal 1° di agosto, perché hanno mandato via due interinali, mi pesa, capito? Mi pesa tantissimo, mi pesa perché tanto non sono più ragazzino, dopo i chilometri sono tanti, sono 120 km andare all'ultimo impianto che controllo e 120 km a tornare, perciò io arrivo sino alla punta di Vignola e non è il buccia di gioga, lo fai d'estate e sei morto perché il traffico che c'è è allucinante, capito? Quella è proprio zona, non venire a dirlo, tutto guivi, non ci sono alternative, a volte taglio la Badesi, Trinità e scendo per non stare in mezzo al traffico, adesso si cammina bene ma i chilometri sono tanti. E quindi è così, sì Giulio, tutto segnato, te lo faccio vedere. Io ogni mese tra Riff e Raffa sono sempre 15, 20, 17 ore in più e quando prendo la busta paga te ne mettono 5, 6, 7 per darti la caramella e il resto è sempre a perdonare, capito? È sempre a perdonare, vabbè. Dai signori, io ne approfitto, sono le 8:20, è arrivato la ragazza mia figlia che cena qua, mi dice la partita, ha giurito che ha toccato un ripeto, può darsi che ha già regato qualche cosa a mangiare, non lo so. Ok, d'accordo, buona cena, allora ci sentiamo, dai. E anch'io adesso chiudo perché sennò poi è tardi, nel senso che prima ceno e poi guardo la partita anch'io, sennò mi tocca di dare un'occhiata al piatto e un'occhiata alla partita, già c'è la televisione anche giù nell'intervernetta, però dove appunto c'è la cucina, però è meglio, me la voglio guardare nel salone che c'è la televisione grande e lì si vede anche meglio. Vabbè, ciao Gra, grazie per queste ore plus, dai, fatti sentire comunque la sera, già lo sai, più o meno quasi tutte le sere già ci sono. Ciao Gianni, salutoni. Alle prossime, ciao. Ciao Giulio, ciao Claudio, dai. Buona serata, buon divertimento e buona carica. Ehi a K, ciao a tutte e due, buona serata anche a voi. E saluto chi ha fatto il capolino poc'anzi, non l'ho riconosciuto, se Massimiliano. Un abbraccio anche a lui. Ciao a tutti, buona serata, chiudo che vado a pappare. Ciao. Ok, ciao Claudio, sì. Sì, ma l'ho sentito non in questo momento, ma l'ho sentito più di mezz'ora fa, l'avevo sentito che aveva chiesto un controllo, se un microfono che stavo usando e dunque stavo uscendo molto molto bene Massimiliano. Il tempo di dargli il controllo poi è andato via, si vede che aveva da fare. D'accordo, ciao Claudio, di nuovo buona cena, alle prossime. Ciao Gianni, di nuovo, alle prossime, ciao a tutti, ciao.